Sette giorni all'alba e poi vacanze sul mare. Lasciatemi pensare a lei, lasciatemi pensare. Innamorarsi in Riviera è una strana emozione, vivere un'altra atmosfera, un'altra un poco Buona Romagna a tutti. Gioventù, portami via dalla vecchiaia, dalla malattia. Gioventù, portami via dalla vecchiaia, dalla malattia. Dalla vecchiaia, dalla malattia. Gioventù, portami via. al campo da golf. Hotel splendid, un mese e mezzo in albergo, per eludere la morte e non morire mai. Lo sai che per dirti addio ti offro un pranzo al calume. Lo sai che per dirti addio ti offro un pranzo al calume. L'acqua e qualche spruzzo che panna le entrate. Qui l'unico saggio è solo il cameriere. Che mi sfugge mentre scappa al ristorante. C'è qualcosa che mi sfugge mentre siamo al ristorante. Vorrei bruciare nel mare le mie ceneri nel vento. Vorrei bruciare nel mare e andare alla deriva. prenderti addio. Ti offro un pranzo al calore, lo sai che per dirti addio. Ti offro un pranzo al calore. Ancora un tragico episodio di violenza criminale in Emilia-Romagna. Questa sera un benzinaio è stato ucciso durante una rapina avvenuta a Cesena. A sparare sono stati alcuni banditi fuggiti su una Fiat Uno bianca rubata nel pomeriggio a Rimini. Hai uno strano vestito, hai uno strano sapore, che non sa di niente. Grazie mille a tutti, grazie per aver assistito a uno dei rari concerti del Lungo Addio. Se siete interessati abbiamo i nostri CD al banchetto sotto al mixer. Grazie mille a tutti e buon proseguimento. Grazie Armonica, grazie.